punto è stato citato Wittgenstein. Io ho detto no, non hanno citato, non ne sono così sicuro, quindi no, penso di no. Ecco, poi c'è l'abecedario e a parte quello. Sì, infatti il punto è un po' capire come procediamo. Cioè, noi abbiamo pensato questa cosa qui, o meglio, un suggerimento di Tommaso. Sono questi due testi che sono utili appunto alla lettura di Mille Piani, che sono lo strutturalismo, lo dicevo prima, macchina e struttura, che poi ha anche citato Franco nel suo intervento. L'idea è quella di dedicare i prossimi due incontri a questi due testi. Li potete trovare sul blog. Al momento solo uno, l'altro insomma nei prossimi giorni lo caricheremo. E appunto si pensava di magari leggere a casa questi due, il primo lo strutturalismo per il prossimo incontro e poi la prossima volta di provare insomma a ragionarne insieme, insomma a discuterne, farci delle domande, insomma magari aiutarci anche nella comprensione e così via. Questo anche per l'altro testo nell'incontro successivo. Il quarto invece sarà la lettura, dedicato alla lettura di Rizoma, che è il primo piano, che è indispensabile, no? Franco l'ha iniziato proprio da lì appunto, per questa ragione, perché è indispensabile la lettura del testo. Boh, anche qui si tratta di capire se, non so, uno di noi si prende la responsabilità di leggerlo, poi di provare a dire delle cose quando ci vediamo, se lo leggiamo, insomma. Però è un metodo che non possiamo stabilire a tavolino, immagino, ma poi di volta in volta proveremo a capire come si svolge il lavoro. Franco ci ha anche proposto una serie di punti, insomma, ci ha suggerito dei temi. Ecco, anche qui si tratta di capire se ci stanno bene, se invece vogliamo banalmente procedere un po' a caso. No? Insomma, ecco, si tratta di discutere di queste cose qui. E poi, insomma, è tutto però da verificare con la pratica, insomma. Sì, ecco, a livello proprio metodologico di quel volo, da che cosa si riconosce lo strutturalismo? È macchina e struttura che, vabbè, io curerò un po', però non come ha fatto Franco, chiaramente, perché io non sono Franco, quindi io ho il testo sotto, lo leggo, dico, parolina, eccetera. È stato pensato un po' come un laboratorio di analisi collettiva di un testo. Da qui fa partire le sue macchinette, le dice, le condivide, insomma, si mette insieme e poi dove si va, ecco. E per questo, insomma, stiamo facendo pure girare un foglio. La mailing list credo che sia uno strumento abbastanza utile per questo, sia per confrontarsi prima, dopo la lettura, ma anche secondo me per l'incontro sul rizoma, visto che insomma questo sui prossimi due una buona, insomma alcune parti del testo saranno selezionate da Tommaso, poi voglio dire se ce lo leggiamo e valutiamo e ci siano una serie di parti magari interessanti le proponiamo o in lista o addirittura quando ci incontriamo. Sul rizoma invece, che è più o meno insomma lì, non credo ci sarà un curatore. Franco oggi ci ha dato insomma una bella spolverata e anche una serie di possibili piani trasversali per il futuro, però sul rizoma magari se ce lo giriamo, se ce lo leggiamo in lista, proviamo a definire delle porzioni di testo da leggere, insomma. Quindi dal quarto incontro secondo me sta anche un pochino più a tutti quello di leggerselo e definire delle porzioni di testo sulla questione un po' più tecnica. Poi così, su una questione che diceva Franco all'inizio, che mi ha cioè anche quando ci siamo incontrati la prima volta è quella che mi ha un po' più solleticato, nel senso che io non ho mai letto Mille Piani, ho letto alcune cose di Deleuze e di Deleuze Guattari, e però insomma una pista che mi sembrava più meno battuta di altre, ecco, mettiamola così, era proprio quella che diceva all'inizio, cioè su un'ambivalenza di fondo del testo, più che invece una lettura abbastanza univoca di quel testo. E quindi il cercare di riconoscere sia tutta la potenza del macchinico, ma anche una serie di movimenti e di possibilità, di immagini che sono state che ci sono in Mille Piani, che in realtà ci parlano direttamente della rivoluzione neoliberale e del funzionamento del capitalismo. Secondo me l'appunto che facevi prima sulla questione della connessione era tutt'altro che un appunto tecnico, nonostante penso che tutti abbiano capito a che cosa si riferiva proprio dal punto di vista anche della nostra quotidianità tecnica, però mi sembra che quello sia una cosa, come si dice, molto indicativa degli sviluppi nel presente e delle ambiguità che ci sono dentro quel testo, soprattutto le letture che sono state fatte, quindi anche per la lettura di Rizoma e della lettura di questi possibili piani trasversali, io proverei a tenere sempre un po' a mente questo altro piano. Riguardo a quello che stavi dicendo adesso, per essere più chiaro, perché magari diciamo la ricezione dello scolatario da parte dei movimenti degli anni 70 e 80 vede i concetti dello sbattagliano come la rottura, come una liberazione propriamente dall'ordine centrico che viene attribuito, a torto a ragione, ampiamente a ragione, al sistema industriale, al capitalismo industriale, allo Stato industriale e così via. Questo corrisponde in buona parte all'intenzione e alla lettera del testo, intendiamoci bene, ma non lo esaurisce, perché il testo di Deleuze Guattari può essere letto, ormai 40 anni dopo la pubblicazione dell'Antiedipo, in una maniera del tutto diversa, e cioè può essere letto non tanto come la proposta di un processo di decentralizzazione, di deterritorializzazione, nel senso di rottura della territorialità oppressiva, ma può essere letto invece come una prefigurazione del processo di deterritorializzazione capitalistica. O intendiamoci, qua non abbiamo a che fare semplicemente con un problema che riguarda il testo dello Guattari, che di questa duplicità è in qualche misura consapevole. No, questo è un discorso sui movimenti e il potere. È un discorso su quello che è accaduto. Cos'è accaduto negli ultimi 50 anni? È accaduto che i movimenti si sono effettivamente battuti contro un modello essenzialmente centrico. Lo hanno essenzialmente sconfitto, rotto, ma nel momento in cui rompevano il modello centrico del capitalismo industriale, ponevano in essere in una sorta di obiettiva alleanza, non intenzionale, non morale, non politica, ma obiettiva, sociale, concettuale, estetica, hanno messo in moto un processo di deterritorializzazione che oggi chiamiamo neoliberismo. E questo è quello che è accaduto nella storia degli ultimi 40 anni. Vabbè, allora dico una cosa, perché tu prima, appunto, sempre dallo stesso punto che dicevi tu adesso. Scusa Francesco, io sono praticamente assurdo. abbiamo il megafono. Tu prima, quando parlavi di questa cosa qua, a un certo punto hai detto l'equivoco e poi hai detto la gabbia che toglierà ogni possibilità di soggettivazione autonoma, che è una frase forte. Poi dopo sei andato alla rottura del significante e poi insomma hai preso delle altre, però in quel punto lì che adesso tu riportavi quindi gli ultimi 50 anni ai movimenti, e prima dicevi una proposta che è stata letta come una proposta, che però alla fine oggi quello che soprattutto rimane, mi sembra, questo tentativo di scardinare il significante, no? deterritorializzare, però rispetto ad altri testi loro che un pochino pensano al Tiedipo, che un pochino ti ispirano, qui la mia risposta proprio molto personale in questo momento è che mi sembra un testo disarmato in un certo senso, o un testo che rivisto oggi ci pone con ci mette molto più in difficoltà di altri testi loro. Questo non c'è dubbio, però disarmato non capisco che cosa significhi. Perché sì, perché abbandona o comunque scardina tutto il resto, tutti i tentativi che sono stati fatti, il capitalismo industriale, ma penso anche tutta la filosofia precedente, salvando magari, che ne so, Nietzsche, ma si ritrova quasi con, non dico, non voglio dire con un pugno di mosche, perché comunque però. Allora io cerco di due cose, non di rispondere, non ci riesco, ma di dire qualcosa. Partendo dalla prima osservazione che tu hai fatto, che al tonno, o almeno così lo ricevo e così la accetto, come di un rimprovero. Tu hai detto, sarebbe un rimprovero gradito, tu hai detto che ogni possibilità di soggettivazione autonoma viene meno. Ecco, io parto da... mi limito a dire quello che posso vedere, sentire e pensare a partire dalla condizione presente. Ecco, l'effetto di deterritorializzazione che il capitalismo neoliberale, ma questo neoliberale mi frega poi poco, ha prodotto sulla soggettività del lavoro, è un effetto che io per il momento considero paralizzante. È un effetto che considero non solo perché guardo l'esperienza degli ultimi anni, e l'esperienza degli ultimi anni mi fa pensare che i movimenti si producono. I movimenti crescono e talvolta sono anche vasti, potenti, ma non sono in grado di impattare in nessuna maniera il piano su cui si muove l'assolutismo del capitale diretto. Questa è una constatazione puramente empirica. Uno potrebbe dirmi, ma sai, i movimenti ci mettono tempo prima di vincere. E io dico, io rispondo, no, mi dispiace, ma non si tratta semplicemente di una constatazione empirica relativa a quello che è accaduto fino ad ora. Si tratta della convinzione che la consistenza materiale della soggettività, che chiamiamo precarietà, poi adesso risparmio che cos'è la precarietà, ne parliamo un'altra volta, ma la consistenza materiale della soggettività rende al momento impossibile un processo di soggettivazione autonoma. Questa è non solo una constatazione empirica, ma la mia convinzione relativa allo stato attuale del rapporto fra lavoro e capitale. E quindi anche fra soggettività. Non vorrei che questo fosse intesa come una sorta di affermazione dissuasiva. Non facciamoci illusioni, siamo sconfitti per sempre. Ma non è questa la mia intenzione. È un tentativo di comprendere quello che accade senza consolazioni. Ha a che fare questo con il plateau e a quel effetto di pugno di mosche che ha a che fare, accidenti, perché è proprio, cioè il plateau in realtà ti dà un poco, oddio, sei un po' crudele nel dire che deve essere un pugno di mosche, diciamo in una maniera meno estrema, ma insomma sì, è vero che la lettura di il plateau non ti permette di arrivare ad una conclusione, meno che mai ad una conclusione in qualche modo politica. Io direi che questa è la sua ricchezza, questa è la ragione per cui il plateau meglio serve quasi a descriversi la condizione nella quale noi ci troviamo attualmente. Poi verrà l'ultimo libro in cui i due anziani amici, anziani perché hanno 60 anni, e amici perché parlano essenzialmente di amicizia, che cos'è la filosofia e ci presentano un nuovo scenario, uno scenario che secondo me i movimenti non hanno mai tentato di leggere veramente, che è uno scenario quasi buddista per certi aspetti, quando ci dicono cosa fa la filosofia. La filosofia non ci permette di liberarci dall'oppressione, e nemmeno ci permette di rovesciare il mondo. La filosofia ci permette di costruire dei ponti sull'abisso del non essere del senso. Questa è la filosofia in grado di fare. Beh, però probabilmente, se siamo capaci di tirare tutte le implicazioni di una cosa di questo genere, allora sì che siamo in grado di inventare di nuovo un processo di liberazione del mondo. Il che ci mette in stretta connessione, secondo me, insomma, almeno con due scritti di Guattari, che uno lo conosci bene perché gli ha scritto la prefazione, che è Klaus Mosi, e l'altro è quello immediatamente prima, l'Estrema Ecologia. E non lo so, io noto una cosa che io avevo segnato. Te a un certo punto hai usato la parola rifocalizzazione, che insomma io metterei subito fra le parole chiave in assoluto di tutto, e chiaramente rifocalizzazione rimanda al primo capitolo di Caosi, quando dice ritornello esistenziale, come adesso non mi ricordo, insomma, comunque costruzione di ritornelli esistenziali, cioè sostanzialmente dare dei fuochi di ordine all'interno del caos, eccetera. Quindi quella sarebbe una pista interessantissima. Cioè, rifocalizzazione Guattari lo usa come una parola schizoanalitica, cioè per l'analisi e per il rapporto con la sofferenza, con la depressione, ma in realtà è una parola straordinariamente politica, perché effettivamente il metodo ti permette di dire, allora il problema non è se mai è stato o non è più, forse non è mai stato, è quello di contrapporre un mondo ad un altro mondo, ma di creare un piano di consistenza del esistenziale, sociale, al limite economico, perché no, è capace di uscire dalla dimensione dominante, rifocalizzare non opporsi. Perché poi, da mille piani in poi, anzi da Kafka in poi, non c'è neanche un obiettivo polemico, ma cioè in l'Antiedipo c'è l'obiettivo polemico, si intitola con l'obiettivo polemico, c'è Edipo, papà, mamma, e anche insomma una certa forma più unitaria delle strutture oppressive, c'è lo strutturalismo forte, 68, eccetera, invece mille piani si deterritorializza, e quindi quella produzione di soggettività che veniva fuori dall'Antiedipo in mille piani è molecolare, e quindi le strutture, diciamo, di assoggettamento, per farla breve, termine anche questo guattariano, sono tutte, cioè sono strutture estetiche, strutture etiche, strutture politiche, strutture psicanalitiche, insomma sono forme di potere che, come dicevi te, la struttura, diceva Chomsky, è un qualcosa che sta all'interno e che governa lo sviluppo, la generazione, citando Ray Massi, l'epigenesi, e le strutture sono molteplici e si attaccano a diversi brandelli della soggettività individuale e collettiva, e quindi la sottrazione è la produzione di un nuovo centro fuoco esistenziale. Vabbè, io riconfermo quello che ha detto lui, non è che dico altro. No, io volevo invece provare un po', diciamo, a ragionare su una sfumatura legata, diciamo, più alle, tra virgolette, nuove tecnologie, nuovi paradigmi, informatica, quindi la rete, insomma, per cui rizoma viene vista come un'accezione, diciamo, di connessione che è, insomma, più attuale. Con questo voglio pensare anche alla biologia, è noto che, insomma, ci sono moltissime similitudini nella, diciamo, combinazione di segni significanti che sia la biologia che l'informatica riescono a dare. Ci sono dei paralleli che sono a tratti, diciamo, sconvolgenti, che lasciano pensare e sospettare che forse, e questa è una domanda che voglio fare, diciamo, se è possibile che diciamo, in un futuro la macchina, intesa come diciamo elaboratrice di algoritmi e manipolatrice diciamo di segni, sia diciamo diventi sempre più simile diciamo all'uomo, nel senso che i funzionamenti, prendiamo per esempio insomma la vita quando nasce con il DNA, è molto simile diciamo a una macchina, perché il DNA è composto dai quattro elementi base che a un certo punto si ricombinano e per qualche strana ragione diciamo una specie di dinamica di campo formano qualcosa che è un corpo, che ha un calore proprio, dà dei sensi, diciamo da degli elementi che prima non erano nulla, erano soltanto molecole staccate, che poi invece raggiungono qualcosa. Lo stesso può accadere anche con i bit informatici, o perlomeno con i segnali diciamo dell'elettronica, che apparentemente sono soltanto diciamo degli errori, un segnale, un impulso elettronico è un errore, una discontinuità. A un certo punto questo viene combinato e diventa un software, diciamo, in maniera molto più complicata. Questo parallelismo che fa, insomma, dal mio punto di vista, porta delle similitudini certe nella, diciamo, nella creazione delle forme tra la biologia, l'essere biologico e diciamo la macchina, in questo caso, in questa specifica declinazione informatica. Possono portare un giorno l'uomo, che è biologico ovviamente, e la macchina informatica a trovare dei punti di diciamo di convergenza, e se no perché? Qual è la differenza sostanziale che impedirebbe di fare questo alla, diciamo, alla macchina, di avvicinarsi all'uomo? Bellissima domanda, ma ma gigantesca. Non lo penso certo di rispondere in maniera esauriente, però uno mi sto portando un libro, chissà perché, che è Organismi e Artefatti, Organismi e Artefatti, non credo che sia tradotto in italiano, di Miguel Benassayag. Benassayag è un medico, un psicanalista, è un biologo, ed è un frequentatore del seminario dell'Uniso negli anni 80, e anche alcune altre cose, per esempio un detenuto delle carceri dei torturatori argentini, come riuscire a fuggire a Parigi nel 77, ma insomma comunque per la segnale come biologo essenzialmente ragiona su questa questione per giungere alla conclusione, per rispondere no alla tua domanda, e cioè è possibile immaginare che la dinamica ricombinante, perché ciò di cui hai parlato è questo essenzialmente, no? Il fatto, giustamente inizio, ma l'informatica e la biologia e la, diciamo piuttosto, la genetica funzionano similmente sulla base di un principio che possiamo definire come principio ricombinante, cioè delle unità assignificanti componendosi secondo dinamiche di tipo casuale nell'infinità del possibile, danno vita a realtà come un software o come un organismo. Non è possibile forse, dal momento che tra l'altro i software tendono, raffinandosi, ad imitare in maniera sempre più vicina l'organismo. Non è possibile forse questo che l'organismo umano, il cervello umano, possa essere ad un certo punto prodotto artificialmente come simulazione perfetta dell'originale. C'è a questo proposito tutta una letteratura americana che fa proprio di transhumanism, rappresentata da personaggi come Ray Kurzweil, per esempio, per dirne uno. Ecco, non voglio entrare nel merito di una questione, mi limito ad uno spunto concettuale che poi varrebbe la pena di sviluppare, ed è una cosa che tentavo di dire prima, no? Congiuntivo e connettivo. Potrei anche dire continuo e discreto. la differenza è vero che la macchina discreta per eccellenza, cioè la macchina, la combinazione o ricombinazione di elementi assignificanti discreti può approssimarsi sempre di più alla simulazione dell'organismo, ma c'è un passaggio finale che direi che è quello che Heidegger chiama l'essere per la morte, se posso citare Heidegger qua dentro, o Deleuze e Guattari definiscono l'intensità, o Bergson chiama il registro del tempo. Bergson dice da qualche parte c'è un registro in cui vengono registrate le percezioni soggettive della durata del tempo, cioè che questo registro è la coscienza in ultima analisi. Bene, il simulacro della vita cosciente può perfettamente simulare la coscienza, ma non l'autopercezione del registro del tempo, non l'essere per la morte, non la percezione del decomporsi. È una risposta molto fragile la mia, e forse questo è l'ultimo degli argomenti, l'ultimo è il più fondamentale degli argomenti filosofici con i quali dovremmo attualmente iniziare. La mia risposta è forse non umanistica, ma poi scopriremo molto profondissimo. Ma la mia risposta è no, questo non è possibile, perché ciò che sfugge è proprio ciò che Deleuze ha in testa. Probabilmente poi a quel punto subentra, diciamo, la distinzione finale tra mente e comportamento. Posso dire una cosa che forse risulterà molto sciocca, però la dico sempre. Nel suo ragionamento sembra che ciò che rende l'informatica, o che rende plausibile la possibilità che l'informatica assimili la biologia, cioè è che fondamentalmente procedono da uno stesso metodo concettuale analitico, quindi cioè come dire utilizzo la biologia, no adesso io sono un medico quindi dirò cose molto scorrette dal punto di vista filosofico, però come dire, no, se io assumo che la biologia sia il canone rappresentativo, allora forse sì, ecco, ma forse la domanda è a monte, cioè no? Non esiste, credo che, come è stato anche detto, cioè non è che esista una realtà data a cui la biologia si approssima sempre più. Cioè, come dire, quindi la biologia a sua volta uno strumento interpretativo della complessità. Quindi sì, cioè quello che sto cercando di dire è che mi sembra che forse all'interno, siccome sono modellate su uno stesso approccio, danno questa parvenza, ma comunque non esauriscono la no, non so se mi sono spiegato. Diciamo che in linea di massima può sembrare molto semplice la risposta, in realtà è più complicato di quanto sia, nel senso che pensandoci l'informatica non potrà mai arrivare alla complessità della biologia. Tuttavia, considerando i progressi che l'informatica ha fatto negli ultimi decenni, pensiamo anche semplicemente alla proiezione nel virtuale, giusto per dare l'idea della complessità di quello che accade. E diciamo proiettandoci su quella che potrà essere le complicazioni positive e l'ingigantimento della grandiosità, diciamo, dell'informatica potrà accadere in futuro, beh, forse la domanda diventa più complicata, nel senso che ci potrebbe essere il rischio che informatica e biologia a un certo punto, siccome è assodato, è appurato il fatto che hanno degli stessi meccanismi. Ok, forse il mio punto era biologia non è esistenza, ecco. Cioè, questo voglio dire io. Non dico come veniva. Anch'io ci ho messo. Diciamo che sarà molto, molto interessante capire come andrà. Noi non lo sappiamo. No, Kurzweil nel suo libretto sulla singolarità di dice nei prossimi 20 anni la miniaturizzazione, l'accelerazione dei processi renderà possibile la perfetta assimilazione del codice elettronico con l'organismo. Però c'è qualcosa che sfugge, che è per l'appunto il carattere dell'esistenza, cioè la percezione di sé come qualcosa che non può essere simulato. Non è una questione di complessità tecnica. E ritornando un secondo al discorso di prima, i fuochi di soggettività si riorganizzano, si risingolarizzano sempre, perché insomma sono connessioni trasversali. Alle 8 più 10. Comunque possiamo anche cenare qua se cos'è una soggettivazione autonoma? Perché a me questo è la prima volta che lo sento, non credo di aver ben capito. Perché come intendo soggettivazione io mi sembra quasi una contraddizione, posto che ogni soggettivazione è un assoggettamento, comunque difficilmente. Cioè c'è la doppia, no, no, soggettamento nel senso di un potere assorbito, un potere diretto dall'altro e sopportato, però c'è comunque una questione di assorbimento e di proposizione di codici a cui. Sì. Difatti è una soggettivazione autonoma, è una formula che politicamente funziona e filosoficamente probabilmente andrebbe un po' lucidata. Il processo di soggettivazione è quel processo grazie al quale, a causa del quale i flussi. C'è tra l'altro una specie di. È come se continuassimo a rispondere alla sua domanda, perché l'atto della soggettivazione è quell'atto per cui i flussi di tipo macchinico, organico, culturale, eccetera, eccetera, diventano soggettività. E diventano in qualche modo punto di vista, diventano il punto di vista dal quale si guarda il processo che ha portato alla. Il problema è che questo processo di soggettivazione può avere carattere autonomo, e autonomo è una parola che in questo caso ha propriamente un significato politico, autonomo rispetto alle dinamiche del capitale, alle dinamiche del potere, oppure può avere carattere. C'è una soggettivazione fascista naturalmente. I processi di soggettivazione non sono di per sé autonomi. Il discorso dello Spattarin si è per molto tempo identificato con un discorso sulla soggettivazione autonoma, non è così, è un discorso sulla soggettivazione, e all'interno di quella si dà la possibilità di soggettivazione autonoma. Perché il problema nasce nel rapporto soggettivazione-struttura, noi abbiamo parlato di struttura come ne intende Chomsky, abbiamo parlato però anche di strutturalismo, di soggettivazione parla anche Foucault, in senso molto diverso da quello che intende probabilmente Deleuze, perché per Foucault la soggettivazione avviene comunque attraverso sempre il riferimento a una struttura che però è quella di strutturalisti. Ora, noi abbiamo parlato di Chomsky, abbiamo detto c'è la struttura interna, l'uovo diventa pulcino, diventa freddata. Se però intendiamo la struttura in senso strutturalista, cioè andiamo a vedere le varie strutture proposte, la collocazione della struttura non è soltanto interna, è trascendentale, tra virgolette, cioè la struttura diventa proprio la condizione di possibilità a partire dalla quale noi vediamo il mondo. Dunque spostare la struttura o spostarsi nella struttura diventa un. No, questo è la maniera in cui lo strutturalista parla. Esatto. Quindi il Foucault strutturalista, le parole sicuramente sì, no? Sì. Cioè, nel senso, ecco appunto, quando Deleuze parla di struttura si riferisce solo a Chomsky o prende di mira anche le strutture che sono arrivate a Foucault passando attraverso gli strutturalisti, diciamo, più ortodossi? Oddio, adesso mi fa di capire che tu proponi quasi di leggere Foucault come l'ultimo degli strutturalisti. No, no, no, sarebbe assolutamente no, no, però questo ne sono assolutamente in Deleuze Guattari la polemica contro Chomsky, polemica, insomma, la differenziazione rispetto a Chomsky è del tutto esplicita in molti punti della loro opera. E, nei confronti dello strutturalismo in generale lo è altrettanto, nel senso che il problema essenziale è proprio quello di sottrarre il processo di soggettivazione ad una generazione di ambiente strutturale e di far intervenire la macchina, per l'appunto, cioè l'evento all'interno del processo di soggettivazione, senza per questo negare che vi sia una generazione strutturale, ma non, questa non è mai decisiva. Cioè, è come dire, beh sì, Chomsky mi spiega tutto quello che sappiamo tutti, io vorrei sapere di più, vorrei sapere la singolarità, cioè come accade quella cosa che non sta dentro la generazione di tipo strutturale, perché quello è tutto quello che vogliamo sapere, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista della specificità del singolare. Insomma. Una domanda, mi posso mangiare. Ma riuscendo al conto, riuscendo al conto, non si conosce più conto. Beh sì, questo è quello che diciamo Freud non se l'aspettava, un esito di questo genere. Cioè il lavoro freudiano classico è quello del ridurre l'inconscio attraverso il processo dell'anamnesi a quella scena che ti permette di trovare le chiavi intimamente strutturali, perché lo psicanalista non va a caso, lo psicanalista si orienta sul fatto che se il tuo inconscio ti riconduce a quella scena, in quella scena ci sono alcune figure che si agitano, che sono il papà, l'Edipo e poi tante altre, quante ne vuoi, ma quindi questa riduzione ti deve permettere di interpretare del conscio per l'appunto e dunque di liberarti da una trappola che l'inconscio invece il discorso schizoanalitico dice no, qui non si tratta affatto di trovare no, tutte le favole che ci raccontiamo possono essere utili, per cui Freud fa bene a incontrare il suo nevrotico e dirgli che c'è un problema con papà, costruisce in questa maniera una possibile, cosa fa in realtà Freud quando dice guarda che il tuo problema con papà, Guattari dice sta rifocalizzando, paradossalmente il fatto di riportarti a quella che sarebbe per lo strutturalista la vera causa della tua sofferenza, Guattari dice beh, è una favola che funziona benissimo, sono favole che funzionano a fare cosa? A permetterti di smetterla di pensare a qualcos'altro. Ecco, quindi per questo ti dico, c'è la pratica schizoanalitica può coincidere in molti momenti con quella psicoanalitica. L'importante è sapere che non stai dicendogli la verità o non stai riconducendolo verso la struttura, stai permettendogli di galoppare in una direzione diversa da quella in cui sta andando. Sì. Passa così.